Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Sorridiamo alla luce del sol, di vita noi siamo il mattino, la gioia ci batte nel cuore, cantiamo il nuovo evento, pionieri, oh e pionieri, la vita ci chiama in avanti, orsù. Benvenuti anche a questa trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloons, che ritorna sugli anni seguenti alla liberazione del 1945, quando la sinistra in generale e il PC in particolare si pongono il problema della cultura, del tempo libero e della istruzione per i giovani poveri dopo 20 anni di propaganda fascista e 5 anni di violenta guerra. Analfabetismo, emarginazione, sfruttamento minorile e micidiale erano piaghe tremende degli strati sociali più disagiati. Abbiamo già altre volte parlato dell'Associazione Pioniere d'Italia costruita intorno al pioniere di Rodari e della Rinaldi. Contemporaneamente nascevano parallelamente anche altre esperienze di relazione e divertimento per i ragazzi figli del popolo e molte di queste confluirono nel 1957 nella nascita dell'ARCI, fondata dal partigiano Arrigo Diodati. C'è una figura comunque che riunisce nella sua militanza i diversi filoni di intervento ricreativo culturale per i giovani poveri. È Carlo Pagliarini, giovane partigiano già con compiti di comando, subito dopo la guerra si buttò in questa grande avventura di progetto culturale per ragazzi, fondando prima la stessa API e poi allo scioglimento dell'Associazione Pioniere d'Italia all'inizio degli anni 60, lavorando per l'ARCI, ovvero sia l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana, diventandone ben presto un dirigente nazionale, ideando negli anni 70 anche l'ARCI Ragazzi. Allora l'ARCI, le Case del Popolo, l'API, le associazioni giovanili dell'UDI, l'Unione Donne Italiane, tutte realtà che nascono da esigenze concrete della società italiana, come ben raccontato dallo stesso Arrigo Diodati, fondatore dell'ARCI, e lo studioso dell'associazione stessa, Luciano Senatori. Nel 1949 a Roma incontra Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer in quel momento era il segretario nazionale del Fronte della Gioventù. Il Fronte della Gioventù era l'associazione unitaria dei giovani voluta e costruita da Eugenio Curiel nel 1943. Con Enrico Berlinguer, Diodati pensa o pensano insieme di dar vita ad un'associazione di campeggiatori, turisti e amanti della montagna. Tant'è vero che appunto per propagandare questa forma di associazione, di aggregazione, eccetera, organizzo il primo campeggio itinerante, campeggi con la tenda in spalla e lo zaino, eccetera, e a piedi il primo lo facciamo proprio in Umbria. Questa associazione deve fare cose semplici, deve organizzare gite, deve organizzare attività escursionistiche a montagna, deve organizzare anche ricreazione e praticamente Diodati mette in piedi questa cosa recuperando una serie di valori e di modelli dell'attività sportiva popolare che erano alle origini dello sport proletario dai primi anni del Novecento fino all'avvento del fascismo. E in questo modo riescono piano piano a costruire una attività che coinvolge quasi tutto il paese. Il 25-26 maggio del 1957 a Firenze, in Palazzo di Parte Guelfa, si riunisce l'Alleanza per la Ricreazione. Alla fine di due giornate di intenso lavoro vengono approvati i documenti costitutivi, in particolare il primo statuto dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana. Di fatto è nata l'ARCI. È nata un'associazione che rappresenta la risposta dei circoli e del Movimento Democratico di Sinistra dopo 20 anni di fascismo, la risposta al recupero di valori culturali, storici, ideali per tentare di sviluppare la politica culturale per il movimento operaio italiano. E nasce con l'ARCI l'associazione che si batte per la conquista, ma soprattutto per la qualità dell'utilizzo del tempo libero dei lavoratori. Ma quali erano le condizioni concrete in cui si trovava la sinistra, in particolare il Partito Comunista, nel suo rapporto con le classi popolari povere, giovani del nostro paese? Questo sarà un po' il tema portante della nostra trasmissione. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Carlo Pagliarini, un protagonista dunque del movimento operaio in quel grande progetto di conquista della felicità anche per i bambini del popolo, poveri e con un destino già da altri scritto. Per capire l'importanza della battaglia per la conquista del tempo libero e dell'istruzione come arma di emancipazione sociale per quelle classi condannate ad essere esclusivamente proletariato, ovvero atte solo a riprodursi ed essere forza lavoratrice a basso prezzo, vale la pena di tornare su quei primi anni del dopoguerra con le lotte nate dal basso per spazi e cultura. Non solo dunque associazioni laiche per ragazzi e ragazzi come l'UDI, l'Associazione Pionieri d'Italia e più tardi l'ARCI, ma anche lotte per case del popolo, cinema, campi da calcio, eccetera. Riascoltiamo allora frammenti degli interventi captati alla celebrazione del centennale dell'ARCI dell'antropologo Antonio Fanelli dell'Università di Pisa e di Luciana Castellina, giornalista e dirigente storica della sinistra. La parola allora ad Antonio Fanelli dell'Università Pisana. Le case del popolo e con quei circoli che avevano ripristinato dopo la liberazione quel carattere polifunzionale che aveva contrassegnato la nascita del movimento associativo tra 800 e 900, prima che il fascismo procedesse con la violenza squadrista alla distruzione o all'esproprio delle strutture associative del movimento operaio, trasformate da case del popolo in case del fascio. Infatti, con la liberazione, le case del fascio furono riconquistate dalle forze democratiche e antifasciste e la loro funzione di case del popolo venne ripristinata grazie al lavoro del CLN e dei partiti, i nuovi soggetti protagonisti della ricostruzione della democrazia repubblicana. Si aprì così una lunga e complicata vertenza attorno alla proprietà degli immobili. Lo Stato intendeva giustamente evitare acquisizioni indebite di beni del disciolto PNF, ma in molti casi entravano nel computo delle requisizioni anche le vecchie sedi dell'associazionismo popolare e di sinistra, che erano state costruite con sottoscrizioni, sacrifici e il lavoro volontario dei soci. Nei casi in cui i fondatori o i loro eredi non erano in grado di dimostrare giuridicamente quale fosse la proprietà dell'immobile, scattavano le procedure di esproprio e si apriva uno scenario complicato. Le soluzioni pacifiche potevano essere quelle che prevedevano un canone di locazione o la vendita dell'immobile agli stessi soci. In altri casi si giungeva allo scontro vero e proprio con degli sfratti eseguiti dalle forze dell'ordine. Era questo il clima politico alla metà degli anni 50. Siamo nella sede di via Cavalleggeri. I lavoratori di Impruneta venuti a conoscenza dello sfratto si stringono intorno alla loro casa. E arriva l'alba del giorno funesto. Ecco il popolo già tutto in piedi di fronte alla casa. Dall'interno gli inni nazionali della resistenza del lavoro si fanno più alti e sonori. Siamo ribelli. Libertà è l'idea che si avvicina, rosso sangue il color della bandiera, siamo l'Italia, la madre portatiera, sulle strade grande vito a segnare, lasciamo talvolta le carni straziate, sentimmo la torre la grande riscossa, trovammo la morte la patria nostra. Ribelli nella montagna, figli di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. La risposta agli sfratti fu la creazione di nuove case del popolo, una nuova epopea di sacrifici, passioni e lavoro volontario, in modo particolare in alcune aree del centro-nord. Ascoltando alla radio una tappa del Tour de France con le imprese di Coppi, si tira su un muro portante. In una notte, pur di ballare all'indomani nel giorno della festa paesana, si lavora alla copertura del tetto, a volte squarciato dalle bombe della guerra, per riuscire a coronare un sogno. La casa del popolo come simbolo dell'identità politica dei ceti popolari, per una grande pedagogia di massa, attraverso un enorme investimento nella cultura come forma di autoemancipazione. Non c'erano solo le biblioteche popolari a coinvolgere i ceti popolari, la musica, il ballo, lo sport erano e sono delle forme di svago dalle fatiche del lavoro e rappresentavano e rappresentano una conquista sociale e politica. Il tempo libero non esisteva nel mondo contadino tradizionale, esso era appannaggio solo di una elite aristocratica e borghese che viveva di rendita. Il tempo libero diventa pensabile e misurabile solo a partire dalla introduzione del lavoro salariato con le moderne attività industriali. Il tempo libero venne da subito inteso dai vertici del movimento operaio in Italia come in Francia come un tempo da dedicare alla cultura e alla politica per attrezzare i lavoratori con gli strumenti più adeguati alla loro emancipazione. Nei paesi di area anglosassone, invece, era forte e carica di tensioni morali ed etiche la campagna contro l'ozio, preludio del disordine sociale. Il tempo libero veniva considerato come un momento di affermazione dell'individuo e della sua libertà e vede da subito in questi paesi la nascita di una moderna industria del tempo libero. In Italia, nel dopoguerra, il mondo intellettuale legato al marxismo, e non solo, anche sul fronte cattolico e liberale, vi era molto scetticismo verso la nozione di tempo libero, in ragione della posizione critica assunta dal mondo intellettuale verso la nascente cultura di massa. È l'epoca della contrapposizione, che è stata racchiusa in un libro geniale di Umberto Eco, fra gli apocalittici e gli integrati. I grandi intellettuali del gruppo dirigente del Partito Comunista erano assai più propensi verso una classica illuministica politica di democratizzazione dell'alta cultura rispetto alla scelta di organizzare il tempo libero e di gestire in forme collettive e con spirito critico l'impatto della cultura di massa sulle classi popolari. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere. Dunque la conquista del piacere, non intesa come uno yogurt alla frutta o un bagno al cioccolato in una spa, ma come il ben più essenziale diritto al divertimento, alle relazioni sociali, all'istruirsi, come ci ricorda in questo intervento Luciana Castellina. Il mondo, fino a tutti gli anni 50 e dopo le elezioni del 1948, era un mondo in Italia diviso drasticamente in due. I mondi erano due. Da una parte c'erano i comunisti e i socialisti, dall'altra parte c'erano gli altri. E la divisione era una divisione di classe. Ho ritrovato un appunto sui dati della Federazione Giovanile Comunista, che quindi corrispondeva a quella parte del mondo, di quegli anni. E gli studenti allora, era ancora il 56-57, erano nella Federazione Giovanile Comunista il 2%. Il 40% erano mezzadri, gli operai erano pochi perché non erano ancora riusciti a entrare nelle fabbriche, il boom si sviluppa soltanto alla fine degli anni 50, quindi un po' di operai, il grosso, erano disoccupati. Questo mondo a parte era un mondo escluso, a parte per quello che diceva il professor Fanelli, perché il tempo libero non era nelle campagne neppure concepito, non essendoci il tempo occupato, essendo privo di orari, diciamo. E allora, badate, è una questione terribile, perché però il mondo intanto si stava modernizzando e si sapeva che c'era il tempo libero, solo che il tempo libero non era fruibile da questo pezzo di società. E le lotte, l'ottenere un campetto sportivo per giocare a pallone era una rivendicazione centrale. Ballare era una rivendicazione centrale, occuparsi, avere la prima cosa che si fa subito dopo la guerra e che comincia con questa cosa, e c'è un bellissimo film di Daniele Segre che si chiama Parean Formighi, che racconta come un paese, Cavriago, si impegna tutto a costruirsi il cinema, perché il cinema stava solo a Reggio Emilia, non esisteva, e tutti partecipano, vanno al fiume a prendere la creta per farsi i mattoni e farsi costruire il cinema, eccetera. Cioè, questa rivendicazione è stata una rivendicazione centrale, e effettivamente la cultura ha cominciato a costruirsi a partire da un pezzo di mondo, nelle case del popolo, e lì era la valenza politica che certi intellettuali non avevano capito, ma però, o perlomeno l'avevano capito, perché il problema era di se tu l'autogestivi la cosa, allora diventava anche un'altra cosa, era appunto la socialità, la riscoperta, il tenere alto il principio della socialità e dello stare insieme. Perché lo stare insieme è il primo passo della politica. La politica è la scoperta che esistono gli altri e che tu non esisti da solo. La ragione perché c'è una crisi della politica oggi è questa ondata di individualismo che fa declinare soltanto l'io e non più declinare il noi. Ma anche un grande concerto popolare di giovani si trovano insieme è un modo per apprendere il noi. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantasmi. Tornando a Carlo Pagliarini presso l'Istituto Gramsci di Bologna, si trova tutto il materiale scritto dallo stesso Pagliarini, con testi storici davvero importanti, come quello che ci leggerà sempre Morena Moretti, partendo da un tragico fatto di cronaca. A luglio 1949 Orsi prese la decisione di licenziare 120 dipendenti, annunciando al contempo la chiusura di uno degli stabilimenti. L'intera città di Modena reagì a questi soprusi, manifestando in piazza e richiamando l'attenzione dell'autorità e del governo. La risposta invece fu lo schieramento della Celere a difesa delle fonderie. La situazione a questo punto precipitò. Con il nuovo anno, il 1950, sarebbero stati riassunti soltanto 250 operai su 560 e per il 9 gennaio venne indetto lo sciopero generale. Oltre 20.000 furono le persone che si radunarono dinanzi ai cancelli. Praticamente tutta Modena era vicina ai suoi operai. All'improvviso però la Celere caricò i manifestanti. Alcuni agenti iniziarono a sparare, causando i primi feriti. Nel caos che ne derivò, con i manifestanti che correvano cercando rifugio, gli agenti proseguirono nel lancio di lacrimogeni e a sparare. A fine giornata rimasero sulla strada 6 persone. Da uno scritto di Pagliarini. Rodari riporta le lotte dell'epoca. Siamo assieme ai funerali degli operai uccisi a Modena dalla Celere. Ascoltiamo Togliatti e Di Vittorio. Pochi giorni dopo ci commuoviamo di fronte ad un testo di Gianni, in seguito abbandonato. Perché in silenzio, bambino di Modena, e il gioco di ieri non hai continuato? Non è più ieri, non è più lo stesso. Ho visto e so tante cose adesso. So che si muore una mattina sui cancelli dell'officina e sulla macchina di chi muore gli operai stendono il tricolore. Potrà sembrare strano che tra i tanti studi e riedizioni delle opere di Gianni Rodari si sia persa la memoria di quella triste e dolce poesia. Eppure, anche questa colpevole dimenticanza fa parte della stessa rimozione avvenuta su tutta l'opera del giovane Rodari, impegnato autore di Filastrocche o Deus ex machina con la Rinaldi dello stesso pioniere, nonostante siano questi gli anni in cui il celebrato romanziere per ragazzi butta le basi per tutte le opere future, come noterà in un'intervista degli anni 70 lo stesso Marcello Argilli, suo grande collaboratore ed importantissimo autore per ragazzi. Ma se noi pensiamo a Rodari successivo degli anni 60-70, il Rodari accettato poi da tutti, quando editori e colleghi e critici convergono su quelle che erano state le linee tematiche inventate e per il giornalismo e per la cultura italiana per l'infanzia nei primissimi anni 50, ecco, se noi pensiamo al Rodari degli anni 60-70, quello che tutti conosciamo, l'autore di Gelsomino nel paese dei bugiardi, l'autore del pianeta degli alberi di Natale, delle favole al telefono, del libro degli errori, dei 20 novelle fatte a macchina, della torta in cielo, cui è stata ispirata in questa borgata del Trullo e qui è stato anche girato il film che è stato tratto dal libro. Quando pensiamo a Rodari, universalmente accettato e conosciuto da tutti negli anni 60-70, non per conoscerlo veramente, per apprezzarlo veramente, dobbiamo forse vedere meglio il Rodari rivoluzionario, il Rodari demonio, Diavolo, dei primi anni del 51. Cosa aveva di tanto particolare questo giornale, Il Pioniere, diretto da Rodari? Era l'unico giornale, allora, che parlava degli ideali della Resistenza, che legava i valori del primo a quelli del secondo Risorgimento, che parlava delle lotte dei lavoratori, parlava della pace, parlava del mondo del lavoro, un giornale che rivedeva posizioni fino allora comuni, cioè affermava l'uguaglianza tra le razze, l'uguaglianza tra i popoli. Queste cose, che ora sono normali, allora in certi ambienti, in larghi ambienti, facevano anche scandalo. Rodari, per questo, è stato osteggiato, violentemente combattuto. E ora si può anche sorridere un po', ma anche un po' amaramente, di un fatto simile. Comunque, Il Pioniere resta un'invenzione di Rodari, forse la pagina più significativa del giornalismo per ragazzi. Giornalismo laico, giornalismo progressista, razionale. Allora, secondo Argilli, un Rodari troppo divisivo per essere celebrato come un pacificante autore di innocue filastrocche buone per tutte le operazioni commerciali editoriali. In realtà Rodari non ha mai abbandonato la sua impostazione di classe e di giustizia sociale in tutti i lavori della sua meravigliosa attività creativa, ma invece sono stati altri a manipolare e tradire questo anelito di giustizia sociale. In parole più semplici, bisogna tacere oggi evidentemente il fatto che Gianni Rodari era un comunista libertario e militante, caratteristica oggi assolutamente detestata dai salotti buoni della politica e della cultura. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, Il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?